panico, fratelli. Stasera c'è l'omaggio per l'entrata nei bordelli. L'invito è riservato solamente ai minorenni, accompagnati da dei maggiorenni, ma minorati nei cervelli. Avete chiesto ad uno strizza cervelli, o vi piglia strizza che vi strizzino i capezzoli. Sapete perché Cristo ha detto basta proprio a deboli. Traffico sulla Salerno Reggio, credici. Sono un giramondo stando solo sulla panca. Sotto sento una capra che mangia, campa e parla e canta e vanta tanta erba e bamba da samba sulla panda. Ma esce dalla panca, arranca e si trasforma in panda. Chiama la mia banca che mi ha prosciugato il conto. Se dici qualcosa ti pago la cassa da morto. Grazie per la stima, lo so che mi amate molto, ma guardate c'è un equivoco, io non c'ho un soldo. Ok, l'esperienza non vale se poi a 40 anni non sapete parlare. C'è una laurea nel cassetto e c'è la sfoderia a Natale, ma per quanto mi riguarda fai cagare, socio fai cagare. Padroni della fabbrica di cloni più ridicola, mi toccano di rado, mi considerano ortica. Fiero dell'anonimato dentro i miei curricula, e cicale, cicale, cicale, schiaccio la fabbrica. Padroni della fabbrica di cloni più ridicola, mi toccano di rado, mi considerano ortica. Fiero dell'anonimato dentro i miei curricula, e cicale, cicale, cicale, schiaccio la fabbrica. L'altra notte mi ha svegliato un messaggino, diceva non andartene tesoro, dai stammi più vicino. Se fossi fiume Nilo l'acqua spargerei di limo, ma Cristo questa dorme con la Bibbia sul cuscino. Sento l'intestino che mi si rigira come quando un rampettonatore fa il figo come Zecchina. Non vali mezza lira cica, senta la formica, schiaccio bacche di bosco e voi cottomasse senza far fatica. Intimami l'intimità, dimmi mia cocò, tre civette sul comò con gli occhiali Louis Vuitton, dai parlami di come fare i soldi con l'hip-hop. Che non c'è un cane che investe manco se ci avesse un Porsche. Questi nuovi quarantenni che si vestono da ventenni e poi ti guardano anche male alle serate. Mi paiono come due tredicenni scapestrate che fumano due canne e dopo stanno a cazzi loro spaventate. Non incazzatevi, vi diamo l'onore causa, anche se tra di voi qua nessuno ce l'ha fatta. Dai fatevi da parte che mi sta venendo l'ansia. Per quanto mi riguarda giustizia sarà fatta. Padroni della fabbrica di cloni più ridicola, mi toccano di rado, mi considerano ortica. Fiero dell'anonimato dentro i miei curricula, e cicale, cicale, cicale, schiaccio la fabbrica. Padroni della fabbrica di cloni più ridicola, mi toccano di rado, mi considerano ortica. Fiero